Adesso dovrei essere, sono anche un po' aumentato di potenza, adesso mi segna un watt e mezzo. Prima non agganciano, capito? Sono sfilettati. Lo so, io uno ne avevo visto, avevo guardato, era di quelli con l'adattatore, col riduttore per l'RG58. Ho guardato dentro come era fissato il centrale e c'erano delle piccole alettine girate, delle alettine piegate così per tenere, proprio attaccato a scotch al spruzzone. Infatti poi il centrale si è uscito, è bastata una sollecitazione minima e si è disassato, poi ne è uscito del tutto. Cinesate proprio, vabbè, ormai i cinesi si sanno, ce la stanno mettendo proprio, anzi ce l'hanno già messa. Io di quelli non ne compro, compro quelli adatti. Ma guarda, io ho preso dappertutto praticamente, l'ho preso dappertutto, e devo dire non è questione né di cinesi né di quelle cose lì, è questione che non esiste fine buco. Poi prendi anche quelli da 5 euro, quelli professionali, al primo acquazzone si sono allagati, quindi con tanto di gomma, qua è un incubo, mentre BNC, con il BNC visto è più tranquillo, sono più, nonostante sembrino più delicati, sono più resistenti. Adesso sto cercando qua, cioè, ma ce la fai a comprare due PL 8,20€, 4,10€ l'uno? Ma è una follia. Ho provato anche quelli da crimpare, stessa cosa. Sai cosa dovresti farli secondo me? Ma penso che l'abbia fatto. Dovresti vulcanizzarli e mettere il grasso. Secondo me non ti dà più problemi. Guarda quante scariche ci sono. E guarda, non è problema di vulcanizzare qua o là. È un problema che si parla sempre di connettori in stazione, quindi all'interno che non si bagnano, eccetera, eccetera. E sono proprio fatti male, capito? È roba ordinaria. L'unica a questo punto sarebbe spendere un patrimonio, 10 euro l'uno, e prendere male le lampe, no? Ma anche di quelli qualcuno mi ha dato picca, capito? Quindi bisogna essere fortunati a trovare diciamo il prodotto fatto bene, perché poi dal punto di vista pratico il PL è un PL, non è che ci metti, dove sono fatto bene, filettato bene e basta, però neanche quello fanno. 3 euro l'uno, sono queste macchilite. Bianco, bianco, lasciate bianco un attimo, non riprendete. Alto, vi faccio vedere il casino che arriva qua quando piove, quando è battente la pioggia. Strano. Sì, perché statica non arriva, il PL quando lo lascio staccato non è mai uscita una scintilla, mai, mai, mai. Non arriva, però è questione di rumore quando c'è pioggia battente. Aspetta che lo cerco. L'ho fatto adesso, mi. Scappa, è strano comunque che fa così, eh. No, è normale. Io lo sento molto meno perché la pioggia sbatte sulla vetroresina e non sul conduttore, mentre sulle mantova, su tutte quelle antenne lì metalliche si crea questo fenomeno, che è tipico di quando piove così molto. Qua sta piovendo parecchio. Tuttora. E se mettono il blanker lo attenua molto, però è come una specie di urlo, mi ha te lo mando lo capirai. Sì, ma lo so. Solo che, Gianfra, nel tuo caso tu hai un'antenna in resina, no? Dentro resina, io ho quella in alluminio nudo. Eppure lo senti lo stesso, una cosa del genere. No, guarda, vero. C'ho zero di cose, ogni tanto sento qualche scarica, ma quelle sono elettrostatiche a distanza. Però proprio rumore sull'antenna non se ne sente. Prima con la Mantova era un casino, faceva queste piogge, guai, sentiva di tutto di più, ma con questa, con la Game Master, è protetta e quindi sbatte sì sulla vetrina, ma non crea tutto quel rumore che queste bighe faceva la Mantova. Ma neanche qua la verità c'è rumore. Ma la testa piovente. Sì, piove, però non c'è rumore. Aspetta, no, qua lo fa, qua è spiccata la cosa. Chissà se dipende da un tipo di antenna. Boh, vabbè. Bene, cacchio, le 9.05, stiamo scherzando, io devo scappare. Dai, sentiamo, Matto, Gianfranco, Luca se ancora l'ascolto, Claudio, tutti quelli ascolti. Dai, vado via, mi attacco la TV adesso. Sentiamo, buona serata a tutti. Via, ciao Marco, ci sentiamo. Okay, ciao Marco, buonanotte. Anch'io me ne scappo via, non mi ero reso conto che era quest'ora, che eravamo arrivati a quest'ora. Vabbè, tanto buonanotte anche a te, buona serata. A domani, se mi viene bene. Io sono tutto un dolore. Ci sentiamo, ciao. Ciao Gianfra, ciao a tutti. Io chiudo presto stasera. Ciao. Ciao. Non c'è problema. da io. Sai anche io come test uso la pizza ampliometrica più precisa. Fa la pizza ampliometrica e la test. Ma aveva l'elettricista quando sono andato in pensione. Gliela chiedevo sempre, mi ha detto, mi porta a dirti la cucina, mi deve fare già veniva a buttarti la sassa, e me l'ha regalata. Buona, molto buona. Aprilo Gianni, aprilo il coperchio. Guarda se vicino allo smitter c'è una lenticchietta. Se c'era l'etichetta attaccata allo smitter si è bruciata quella, non devi cambiare lo smitter. Sì, nel mio piccolo sì, la cosa che mi serve fare sì. E la pizza aeromedica che cosa si usa? Io la pizza aeromedica la usavo per misurare se c'era assorbimento più alto nei cavi, la mettevo attaccata ai cavi così, nei cavi dei quadri elettrici. Ma non si può solo misurare il carico di assorbimento? Sì, sì, sì, facevo carico e assorbimento, ma giusto così ogni tanto, quando mi diceva qualche conduttore mi diceva che saltava magari il magnetotermico di qualche impianto, capito? Il generale, allora passavo con la pizza ampliometrica e guardavo se il carico era giusto, se l'assorbimento delle pompe era giusto, proprio nel centrale però è dove arriva proprio il cavo quello grosso. Pompe diciamo aveva soltanto un pezzo magnetotermico abbastanza grosso. È un megaticket che distribuisce tutto perché sono un po' delle pompe. Però noi quattro elettrici siamo che loro ci mettono tanto di quella gomma che ne ha scorso già 150-250 ampere, capito? È già un bel. E quindi sono i differenziali in uscita vanno sul magnetotermico, ci mettono un casino di cavi sotto. Allora cosa facciamo? Ma uno controlliamo e scegliere il motore qua, qua ne ha 25, qua ne ha 13, noi togliamo ancora qua, che ne ha 25 e lo distribuiamo a quello che ne ha 13, poi dividere il carico, se lo scaldava sopra. No, ma molte volte a me, no, così lo faceva l'elettricista, anche perché ogni settimana l'elettricista tassativamente doveva passare nell'impianto e controllare tutte, perché sono le schede da compilare, sono le schede elettriche mensili, capito? Dovevamo presentare io tutte le relazioni dell'impianto, lui tutte le schede dei quadri elettrici, eccetera, come manutenzione ordinaria e straordinaria. No, io proprio a volte capitava che c'era qualche problema e quindi dalla linea diretta proprio anche della 380 soprattutto appoggiavo la pizza ampliometrica sull'ingresso del generale per vedere se c'era qualcosa insomma che non andava bene. Più di una volta mancava anche una fase, non è quello il problema. No, aspetta, no, non fondere, Claudio. La pizza ampliometrica non ti misura la 380, ti misura l'assorbimento in ampere, capito? Lo trovare su un ampere con un potenziometro. Giustamente appunto lo metti fino a 600 volts, ti misura la 380, con due fasi alla 380. Con tre fasi, la corrente 180 la puoi fare. Tre fasi puoi fare tre linee da 220, una fase un minuto, una fase un minuto, un'altra fase un minuto, altre punti sull'altra. Quella controllavo, ti gioco di tende e non mi vai venire. A volte solo quella controllavo perché poi se ne occupava l'elettricista. E siccome poi gliela chiedevo per i fatti miei, per fare misurazioni a casa, eccetera, e quindi alla fine me la regalata. Ma non era compito mio, io l'elettricista ne ho fatto poco. Quando c'erano problemi che i conduttori mi avvisavano, o passavo io e controllavo se mancava una fase o se c'era qualcosa di anomalo che si poteva fare tra di noi, lo facevamo, altrimenti chiamavo l'elettricista, veniva Edosa, non voglio fare elettricista, non so che elettricista io. Lo conosco, c'è la pizza ampliometrica che è il tessere. Gli strumenti di misura li conosco tutti, non è un problema. Capito? Gianni, quindi controlla se c'è quella, una dovrebbe essere una lenticchia piccolina nello smitter, mi sembra che l'ho vista durante il 2009 mio, l'avevo vista, quello che ho venduto, l'ho colto, e se parte quella non segna lo smitter, quindi non devi cambiare lo smitter, devi cambiare quella lì, già ce li ha fusato comunque. Quando invece a non ricordarmi di specchi. No, ma la cosa era cazzo, boh, strana era che boh, andavamo sul 10 e questo microfono fischiava, andavamo sul 9 e non fischiava più, allora credevo avete trovato chi non stesse 09, in udese, Tony, ma cosa dobbiamo fare a Gianni più rotto? So cosa che succede. Io ho fatto i 7 conti bene quando sono in frequenza quella sera. Ho detto chi è che sei? Masso Masso, chi è lui? Un attimo, se ne so che c'è un Masso Masso, non capisco chi è. Ho detto chi sì? Ho detto Cangiani, 4 e mezzo, segnale. Sono so preoccupato, io ti giuro. Sappia cosa che ho fatto? L'ho telefonato. Io ho telefonato 3-4 volte quella che sia. Ma tu guarda, non è meglio, sono disperso, non puoi essere risumiato. Se ti ha messo più da un capo, tutto lo pensate. E quindi ho detto la tua cosa e lui mi ha detto che è tanto, mi sei sentito, mi sei lontano, eccetera, eccetera. E quindi, e si è risolto il problema, dai, piano piano, come te lo puoi staccare l'antenna. E quindi, a me volte io, quando succede il temporale, la tua cosa che faccio, sta col piede. Poi, io quando ho tutto la salto del temporale, qui non faccio niente, posso fare massa, e basta. E poi non farò così, tira, perché te lo puoi portare, te lo puoi. Io non ho questi problemi perché ho il commutatore elettronico a relè sul tetto, quindi metto giù il neutro col controbox e stacca automaticamente su, quindi non ho problemi, non ho quel problema. Però chi non ha il commutatore o come questo o qualsiasi tipo di commutatore devi staccare l'antenna quando c'è il tempo brutto e buttarla in terra, non vicino alla radio, la butti in terra, boh, basta. E vedrai che il problema non succede. Quando è attaccata alla radio è un casino, non sarebbe attivo. Vabbè, comunque il ponte si è risolto, adesso può risolvere anche gli altri problemi che ci sono. Ma lo coperchio di sopra solo vi toglieggia. Tanto sopra si vede, se c'è si vede, vicino allo Smith c'è una lenticchia piccolina. Deve essere partita quella lì, perché senza quella non funziona. A me me l'aveva fatto vedere Massimiliano con Gigi, che aveva queste lenticchiette. Avanti, riprendi. E se non funziona ti rimaniamo, vuol dire. Oh, guarda, dove tu gli ho dato? A chi? Dacco. Dacco. Capa. Boh. Una della Liga, non da vento. Ha messo anche una 20 metri da palo. Ho furto e poi ha messo tutto a te salotto. Ehi, Parisio, già ne ho visto di questi bei lavori. Ne ho visto di queste belle distruzioni, autodistruzioni. Mamma mia. A Carlo CH23 mi ricordo che gli è entrato il fumo e l'ha fatto un buco. Io penso che si entrava un gabbo mio dentro un muro. Ha bucato il muro completamente. E si è fermato perché lui aveva un sistema di chiusura d'antenne con un commutatore fatto da lui e c'era una bobina che scaricava in questo contenitore fatto sempre da lui e si è bloccato lì, ma ha incendiato tutto, se passa lì incendia la casa. Io una volta sono andato a fare una consegna in una casa e ha incendiato tutta la cameretta dei ragazzi. Sono milioni di volte. Sì, che qua è caduto, mi hanno colpato a me 3 anni fa, che avevo appena montato le direttive e dice che le mie direttive avevano attirato i fulmini. È caduto un fulmine qua, ha fatto 50.000 euro di danno nel mio complesso, 50.000 euro di danno. È caduto, ha bruciato di netto, ha preso fuoco il trasformatore, sono intervenuti i vigili del fuoco. Mi abbogo di niente, stava prendendo fuoco la cabina elettrica qua, è caduto proprio lì, capito? Automaticamente come è partito il trasformatore la cabina si è crepata ed è saltato tutto in aria, ci ha fatto un sacco di danno a noi, a me mi avevano rimborsato 1.700 rotti euro, ma su un danno del triplo, capito? Del triplo. Però non ti danno il 100%, ma vanno dato il 70% mi sembra. Comunque, le fulmine sono pericolose. Lo attira anche un filo di erba. Molti dicono, è un fulmine da ciel sereno. Quindi, ho visto certi filmati. Bacio il sole, ha uno scorso temporale, batte un fulmine e lo fino a sasso. Questo è un fulmine da ciel sereno. Ma sono pericoloso a me. Una volta a Trattamona, non ci parlo di adesso, ma a tempo questo tipo passeggiando sulla battigia, un fulmine l'ha preso, l'ha cattenita loro e l'ha seccato. Aspetta un minuto, riprendi che sono al telefono. Si è chiamato l'auto, mi ha preso un tizio, ce l'ha cattenita loro al collo. Offensivo, pericoloso, pericoloso, pericoloso. Il telefono è pericoloso perché il telefono ha una minimissima parte di oro, non c'è il telefonino, quindi ma è la solo fuori, non c'è, non c'è il temporale, c'è. Beh, e il fulmine non la scorte, non è dopo da scartare. Milioni e milioni di volts, è un casino. E il fotografo che lui ha arruinato non si mette l'auto, non so piccolino, quello marroncino, perché quello lì lo sa mangiare un luce, ammazza di Eulalia. E l'altro non l'ha lasciato, tu perché i due cioccoli separati? L'ho messo, quello mangia, ha l'aspirapolvere, e pure lui lo mangia, a quello si sposta, si sposta lui via. Come dirò, ma scappare? E lo separare, però ero fuori, l'ho detto. Adesso lo vediamo, ascoltami, perché non si mette almeno questo, lo mangia poverino, eh. Ho fatto un pezzo di pollo con un pane di cibo, tutto si è mangiato. Spacco, dove c'è stato questo periodo che sta mangiando un po'? Come mai? Ah, boh, la carne sta mangiando. Buono, io mangio tutto, domani faccio un po' di pasta, quello lì, via. Comunque se la cosa lo giornate, mi devo prendere un po' fastidio adesso. Ma io le ho prese, adesso devo fare niente in un più da fra poco. No, io faccio la mia colpa. Ho avvisato la metatomina, la pastiglia, capito? Mio mi devo uomo, devo passare. Anche io ho preso la metatomina. Io prendo una mattina, una giorno e sera, e la notte soltanto di solito. Non c'è unità, è buio. Cappa. Mi stanno arrivando i messaggi, via. Non so che fine ha fatto ieri, se è risposto alla figura dell'anno, poi sentiamo per farlo. E poi stai, lo c'erano due o tre volte e poi spento tutto. E c'era stato ieri, no? Perché questi giorni è solo, fra. Sì, Frantino. Frantino, già. Guarda così da là che so, com'è se qualcuno vuole tre qua là. E mi ero già con il corpo, cavolo, ma è troppo, dai. E vabbè. Dai, mi trovo la pastiglia che ce l'ho dentro il cuscino, già, un attimo. Sto guardando se le retteghine è a posto. Le retteghine? E io, porto le sue insegnate cose al zero, le secondo te. Il cuore mi ha portato al zero, ora. Ora sto già che mi trovo la pastiglia. Antonino, risolto il problema dello Smith. No, canazzo, qua se mi dici che ci avevi RFI a zero, sto venendo a casa tua. No, quelle cose SVR, era su SVR, capito? Ah, in ricezione, in trasmissione. Adesso questo segna bene, Antonino, Claudio, segna bene questo Smith. Vuol dire l'altro non è educato, quello che c'avevi. Quindi funziona lo Smith, allora eri tu che hai sbagliato, hai messo la scala, non saliva per quello. Perché c'era il suo SVR, era, capito? No, era arrivato così, è arrivato due giorni fa, questo è nuovo, capito? Allora te lo dato. E ha aggiunto pochi spiccioli dopo con quanto nuovo di te. Fatto bene, alla fine hai capito, bisogna comprare cose nuove. Non toccate dagli altri. Boh. Cappa di rosmetro, va bene, hai visto che non c'è che fa niente lo Smith. Ma non c'è nulla che segna anche il segnale tuo, 9.30 sul tuo segnale, poi Antonino. Sul più del 30 o sul 3 sono? Antonino. Ti ha detto che è andato un attimino, si è allontanato. Ti ho detto sono sul più del 30 o sul 3 pieno? Sul 3. Allora è giusto, 9 più 30. Anche tu qua sei così. Adesso sei sul più perché sei con quello lì. Però quando usi l'altra sei sul 3. Capito? Questo l'ho regolato al K, quello che ho venduto, che è appena arrivato dal centro assistenza, tutto tarato, tutto a posto, quindi ho fatto la stessa misurazione. Cazzo, mi ha mandato lo schema completo, del Galaxy Massimiliano, con tutti i numeri, a cosa serve quello, a cosa serve quello lì, tutto lo schema completo. E io guarda adesso quanto ti sta arrivando qua. Adesso sei sul 3. E la radio com'è, buona? Sì, sì, buona. Adesso sono attaccato. Adesso sei sul 3. Come sempre, però la radio è buona, vedi, vuol dire che questa, i watt sono giusti, regolati giusti. Ora, ora, ora. Un secondo qua, che devo funzionare. Normale. Io li credo, se vuoi fare, è tutto che andare. Io va bene, Gio. Claudio. Lui no. Hai capito, vuoi fare? Due vatti. Due vatti. La parete è regolata, due vatti. Ecco perché ti porta a bene lineare. E lascialo uscire. Sì, sì, sì, va bene. Arriva fino a 200, come lo fa? Va bene già. Ehi, me ne poi buchi. Ma almeno c'è la radio a posto. Vedi, lì adesso le metti il microfono in tavola. Lasci i watt così e ti sfrutti tutta la potenza di quel lineare. 200 watt per il momento. E sei a posto. Ma è cosa che è una bella radio? C'è una ricettoria favolosa, poco limpida. Come vedi Gianni, io ho venduto 241 partito stamattina, ma in giro di un mese mi. Il 430 l'ho mandato al centro assistenza a fare una bella revisionata. Ho venduto tutto, perché? Perché ho tranquillità con questa radio qua. Io col Galaxy sono arrivato, va più che bene. Ha una ricezione da favola, 15 watt, arrivo a tutte le parti, canali, frequenze, va tutto, frequenzimetro, a posto. Io stasera ero un po' così sul fatto del segnale che mi ha dato la Mulos, che non so se sia il suo speaker sbagliato, ma ti stavo uscendo con coda, ci mi segnava il watt, segnava la fretta con tutti a 50. Boh, a me il segnale sempre quello mi dà, a volte anche più 40, se c'ho più potenza, ma con 15 watt io così arrivo, 9.30. Lui stava arrivando a 9.20, non lo so già, non lisco. Io praticamente gli arrivavo 9.15 con quell'apparecchio di qui, 9.15 e stasera sentiamo 7, allora l'antenna non sta andando. Ma da te c'è per lo stesso arrivo qua. Cosa già? Ho detto da te c'è per lo stesso segnale, con l'altra parete. Sì, tu sei stato sempre 9.20 liscio, quando attacchi 9.30. Col Cobra, che c'ha un po' più di watt anche da liscio, fai 9.25 e poi quando attacchi sei 9.30 abbondante. Ma quindi vatti là, e poi risegna qua che poco la fare, non capisco buttato. È soltanto 9.15, con gli altri si è cambiato apparato, non lo so. Sicuramente lui ne prova tante, ne ha tante, di baracchini, magari. Non lo saccio, però stai sereno che tu stai andando benissimo. E così Antonio la stessa cosa, gliel'ho spiegato, che lui per la posizione che arrivare a Muros, Santiago 6, non è con lineare attaccato, Santiago a tre liscio, non è buccia di gioco ragazzi. È da tutt'altra parte, siete tutti in città, bassi, per scavalcare questa zona. È difficile arrivare, c'è scala di ciocca, c'è tutta la collinetta lì di della piana di Campomela, non è facile arrivare molto alti a Muros, capito? Non è facile, assolutamente, non è facile, capito? Quindi non è che ne dovete fare un dramma, è una posizione molto molto strategica. Se mi parli di Ossi, allora è un'altra cosa, ma a Muros non è buccia di gioco, No, io ho fatto una comparazione con i segnali che mi dava prima, che era 9.15 liscio, e poi se attaccavo arrivavo a 9.30. Lo so già che cosa stavo usando, però ripeto, dove siete voi dalla parte bassa, bassa, perché io parlo bassa perché siete giù nella bassa valle, capito? E arrivare a Muro, insomma, non è facile, non è facile, assolutamente non è facile, quindi, capito, non è facile. Io qua ce l'ho davanti, supero Scala di Ciocca, quindi è chiaro che lui mi arriva a 9.20, quando voi le date 8, 7, massimo 9, a me sta arrivando anche 9.30 a volte, quindi, ma perché la posizione è libera, essendo voi nella posizione bassa della città, bassa nel senso che è più bassa di qua, dovete superare molto più ostacoli a sentirlo e quindi a volte ci sono problemi. Tonino. Tonino si è drumito. No, ha detto arrivo subito, è al telefono. E bombolo, non è entrato, ma deve essere stanco. Guarda, stavo messaggiando sino a poco fa con Antonio, perché è andato al bar, mi stava tutto raccontando. Lui quando va a scuola guida passa sempre al bar dell'aria, ho preso un caffè, un bitter, una cosa, e mi stava raccontando. Penso che sia già a letto, stanco morto poverino, tutta la lì, ha visto che si è fatto un culo, dire Madonna, ed è stanco morto, poi non ha riposato niente perché è andato anche a scuola guida, ha visto che è entrato in radio che erano le 8 passate. Questo mese mi sa che non danno esame, quindi a quanto sia non danno esame, quindi devi aspettare l'esame. Speriamo di dimenticarci, speriamo di dimenticarcelo. Stasera, lo sai dove sono passato Claudio per andare lì? Sono passato dalle Conci lì, ho messo il conton e mi ha portato sino alla casa dove dovevo andare. Proprio perfetto, sotto la scritta arrivati. Sì, ma infatti. No, io poi mi sono indicato perché facevo la strada vecchia di della Bosassa praticamente, no? Poi giri lì per andare a Olmedo e al bivio di Olmedo c'è dove dovevi andare tu, capito? Poi mi sono dimenticato di dirtelo. Beh, tecche tacche, io me ne vado nel salone a vedermi un po' di Grande Fratello, dai, che ci sono un po' di culi. Ok, ciao Gianni, ciao Tonino, salutami a tutti. Se entra qualcuno, io chiudo, dai. Se no diventa un po' monotona la cosa, no? Mi sento un po' in chissà in questa sedia. Ci sentiamo domani già, tranquillo e sereno, ok? Quando hai necessità fammi un colpo di citofono, ciao. Ciao Claudio, dai, buona serata, vado anch'io a vedere il televisore. Tonino, ci sei? Non rispondi più, vabbè dai, vi saluto tutti anche da ascolto. Ciao, domani, ciao a tutti.